niente, pure di gusti. Che cazzarola. Ma c'è morta questa la figlia dello. La figlia, la sorella, l'ho perfido. Se li conosci. Sono molto conosciuti a Sassari. Che se non erro il padre prende Torrone, lo fratello. E beh, Lucariello. Ti lo busco, vabbè. Tutto bene? Senti. Sono uno zombie. Tutto bene, no. Comunque sto facendo la cura. Vabbè, ti devi riprendere piano piano, abbi pazienza, non è che purtroppo le cose non passano così velocemente, però hai bisogno di un periodo di riposo, giustamente, sei uscito da un'operazione, quindi insomma dai, fatti forza, già passerà. Per forza lo devo fare, per forza, piano piano. Tutto bene, ho visto la foto di quella Fiat 600 che è dentro. Vabbè, se no anche a farci un giretto a Sassari, dai, a sgasare un po'. Ma cos'è, Sporting? La Diablo. Non so se hai capito la battuta, Fiat 600 Sporting. E allora, però via, vabbè, sono belle emozioni anche quelle. Goduria. Invece mi sono fatto la foto con la macchina militare, quella verde, quando c'era le cose in Piazza d'Italia. Niente, lo so. Io non so se deve fare il giro in Ferrari. Sì, abbiamo fatto anche questo. No, ce l'avevo io 2 settimane fa con la militare, sono uscito, l'ho presa e... c'avevo 8 giorni, sono andato a fare un giro con i ragazzi, con il cane, un platanone, un posto, e vabbè, sono cose così, niente che, era giusto per provarla, perché non ti immagini mai come può essere se non la provi. Beh, certo, immagino, via, avanti già. E io l'ho guidata la 600, ce l'aveva il padre di un amico mio, e ci avevano messo al posto del clacson un orologio tipo, cosa ti posso dire, la cipolla, se l'è presente, incastonato lì nel clacson, suonava anche il clacson, però c'era l'orologio incastonato, era così bellino, guarda come l'avevano fatto, e ce l'aveva con gli sportelli di controvento. Aspetta che ti mando la 600 che avevamo noi. Ma te l'hai comprata? Questa qua dove la tino la 600, la modificata, mi sa che fa 320 km orari. 600 cavalli ha solo. Cazzo, nulla. E di chi è questa 600? Adesso vuoi entrare troppo nei particolari. Vabbè. Te l'hanno prestata, là? No, vabbè, guarda, se l'interno ho mandato un video, fa un po' arrivo, ancora sta caricando. Solo l'interno prima di partire. Capito. Che ora gara? No, vabbè, ho fatto anche un giro con la rossa, che ce l'avevo qua, ma mi piace più questa. E cammina? Ma tu ce l'hai presente? Vabbè, forse... non posso, il paragone che ti posso fare io, che ho provato nel corso della mia vita, è stato quando le prime montagne russe che ho provato, la prima discesa che ho provato, che ti manca un po', sai, il respiro, l'aria quando prendi la discesa. Questa è una delle cose che ti fa in un primo momento. Ho capito, la sensazione che provi. Sì, ma giusto messo da 0 a 130, 140 in pochi secondi. È uguale al motore a punto, Sì, lo mi è uscito dal luogo lui. Adesso già ti sento, fatti sentire. Ciao Ginko. È uguale al motore a punto, uguale. Sì, turbo diesel. Santiago quasi 7, radio 3, 4, dai. Però riesco ad ascoltarti. Vabbè, dai, cosa devi fare? Quanto è andata a Wacone? Cosa puoi fare? Più che così non potevo fare. Meglio di prima, dai. Sì, vabbè. Ma è metterti uno... vabbè, neanche il dipolone che va tanto bene, perché non ricontare. No, l'abbiamo messo, non prendeva niente, perché c'ho la facciata e poi davanti c'è il palazzo. Non mi ricordo in che zona sei. dove c'è la bretella. Ah, ho capito, ah sì sì, non ricordo ora, ma l'hai detto, è vero, è vero, è vero. Lì sei tappato dai palazzi. Sì, è tutto un palazzo, forse anche al primo palazzo vabbè un altro discorso, ma io sono all'interno. Sì, me l'avevi detto, ma no, me l'avevi detto. Vabbè, sto arrivando lì, guarda il segnale, tu pensa che sto praticamente passando, trapassando i palazzi. Cazzo, tu sei non è pieno, vabbè, tu non devi contare a me, io l'antenna si può dire a quadra, però se avrei avuto anche la sul tetto, ma lo smetterà che da 9.30. Appunto, ecco, io sto trapassando i palazzi, nel senso che li prendo di spalle e poi ci sei tu. Sì, sì, se sei 9 pieno, 9.5 pieno, la radio è super 5. Già va bene, già va bene. Riprendete voi, OT, già l'ho visto anche io il video di quella roba lì, di quella 600 lì, OT. Mi curerebbe, pure lì volevo uscire. Cazzo della macchina. Sarà bene. Vabbè, tu, comunque, non mi hai detto cosa ti hanno fatto, l'operazione al naso, ma cosa vedi? Scusati. Ho detto, ti hanno fatto l'operazione al naso, ma che cosa vedi? In pratica, cosa c'era che ti hanno operato? Poliposi. Adesso devono fare la... come si dice, la devono... devono vedere un po' se sono buoni o cattivi. E setto deviato e turbinati. Una bella cosa, insomma. Impegnativa. Ti, adesso è delicato. No, è brutto quando mi hanno levato i tamponi, guarda, mamma mia. Non me le voglio ricordare ora. Ui, carità, un'ansia, ragazzi. A parte l'ansia, ma anche, insomma, la preoccupazione, insomma, per vedere un pochino cosa tutto c'è dietro, va, speriamo bene, dai, perché vuoi. Attivo, grazie. Adesso c'è questa, come si dice, una struttura in plastica, grandetta, dice, Marco dice che arriva fino a su in alto, ho visto un video, praticamente questa struttura qua serve per far sì che la, come si chiama, la cartilagine, come ha messo a posto il setto, si calcifichi bene, ecco. Non capito, che riprende insomma la cosa naturale. Esatto. Allora vado, ma di gabbo, occhio non li posso umiliare, ho preso la tachipirina, non ho fatto un cazzo, niente, zero completamente. La tachipirina fa bene per i dolori e per questo problema che ho io, non mi fa sanguinare, invece se prendo l'occhio mi fa sanguinare. Un casotto, a me lo stesso, io sono, anzi, diciamo la verità, quando fumavo all'ordine del giorno ne prendevo una, due, tre anche, una volta ne ho preso sette, figurati, di queste pastiglie qua, però poi era assuefatto da lucchi, ho cambiato chetoprofene, si chiama questo, è un generico del lucchi praticamente, però ce n'è di meno, perché lucchi era 100 grammi, questo qua 80 grammi, e ti dico la verità che mi ha fatto meglio il chetoprofene che il lucchi, forse perché era assuefatto. Però per il mal di testa dopo 5 minuti, guarda, me lo passa completamente, al contrario la tachipirina non mi fa niente. Sì, no, io con Lucchi vado d'accordissimo. Tu pensa che con Lucchi, ti faccio un esempio, se prendo la tachipirina non mi fa un cavolo per come si dice, l'influenza, ecco. Invece con Lucchi sì, ci passano giorni, però mi aiuta molto, mal di testa, tutti i dolori, tutti, anche mal di schiena, lo sono a suo effetto, però a momenti la uso, a momenti io male un po' di mal di testa, se ho mal di testa dovuto da qualche bicchiere di birra di troppo, che me lo fa, però niente, non ne prendo, lo evito, magari c'ho anche un mal di testa così mi viene dovuto, perché prima avevo turbinati chiusi, sai com'è, no, non arriva bene l'ossigeno al cervello e ti prende, ti bigliama di gabbo. E niente, però vabbè. Quindi se avessi preso adesso l'occhio mi sarebbe passato, ma purtroppo non lo posso pigliare perché sennò buttava giù sangue. Ma l'occhio bisogna stare attenti come si prende. Bisogna prendere lo stomaco pieno e prendere anche il gastroprotettore possibilmente prima. Sì, sì, però stamattina quello. Lo so, Gianni, io molte volte ci penso, però quando ho una ristetta lo prendo direttamente. No, è sbagliato perché ti rovina lo stomaco. Ti fa venire le ulcere, questo ho detto dal dottore. Sì, vabbè, non è che sono ogni giorno che lo sto prendendo, quindi grazie a Dio da quando ho mollato la sigaretta non ho più sofferto di mal di testa, o quasi mai, è raro che mi viene mal di testa. La morte che non fumiti? Appena 19 anni. Solo? Io sono 12 anni già che non fumo. Ma ho smesso, vabbè, una volta avevo smesso e poi dopo 3 anni avevo ripreso. Poi invece mi sono accorto e ho detto, da oggi non fumo più. E prima di nascere, 2 anni prima di nascere mio figlio, insomma, ho smesso così, di mia spontanea volontà. Anche a me mi aveva fregato, un amico, fumatela una che non ti fa nulla, fumatela, dai, ce la fumiamo insieme. Ma convinto, mi ha fregato e dopo me le ho comprate. Però poi un giorno sono andato a pescare, pensandoci bene, ho detto, è un atto strano che fai, aspiri il fumo, lo butti fuori e non ha senso, capito? L'ho vista così io, e poi l'ho preso, ho spaccato tutte le sigarette che avevo, tutte rotte, e dal giorno non ne ho più toccato una, niente. Sì, diciamo che ci vuole un po' di carattere, perché per me è stata una questione di puntiglia, più che altro, perché ho detto, ce l'ho fatta un giorno senza fumare, adesso lo ci provo. Ci ho fatto 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, una settimana e così via. E allora ho detto, ma ho resistito una settimana, ho resistito la seconda. E praticamente mi è nato così e grazie a Dio ho smesso senza problemi, dai. Ma non la cerco minimamente, anzi mi dà fastidio. Anche a me dà fastidio. E guarda, per me la prima settimana è stata la più critica, poi dopo la prima settimana ho cominciato, anche se quando andavo a pescare la mia abitudine era lanciare e poi accendermi la sigaretta, andavo a cercarla e poi mi ricordavo che avevo smesso e andavo a pescare proprio lì al presidio militare, che a 2 passi c'era il tabacchino, sai quante volte mi ha tentato però non mi sono fermato. Luca, io una volta siamo andati con Giovanni Tremendo, immaginate la scena, mi dice, io guarda che andiamo a pescare, dai, preparati. Vado a prendere la casa sua, cioè la sorella Tina, mi raccomando, stai attento, non ti preoccupare, prendo Giovanni e scendo dal presidio, gonfiamo il gomoncino. E poi ce lo fa, però, devi portarmi la lente fuori. Sì, devi farlo io, Mi prendi, porta le lente. Non fa in tempo che a mettere le lente fuori, ma io ti parlo, avevamo un livello di circa di 250-300 metri di lenta. Ma fatto in tempo a rientrare, ho detto, Giova, ma la canna tua ventina, poi ho bisogno di un'acqua da 4 kg, la massa mi ne sembra. Scannaredda, sarà peggio di quello di Portatore, se c'avevo i granculi un giorno, stavo pescando e questo qui, il motocarrozzello, è arrivato e mi ha detto, Asco, non è che mi fa fare un lancio qua, me lo dai un granculo? Vabbè, tieni il granculo. Quindi la lancia, oddio, cosa ha aspettato? Una ventina di minuti, abbia un'orata di Ghissimani, ha detto grazie, perché non c'ho lavoro, adesso me la vendo e mi faccio i soldi per la giornata, ma ha fatto pure un bene a Bovaraccio. Lo so, vabbè, ma di chi sto parlando io? Tu non so se lo conosci, ma Luca già lo conosce benissimo. Ti puoi solo immaginare la fatica che stava facendo per tirare questo latte, l'ha imbrigliato. Ma ricordo come se fossi oggi. Io me lo prendevo in giro. Vai Giova, vai! Lì l'ho pescata anche una bella, però sarà stata sui 2,8 kg, 3 kg, dai. L'ho pescata anch'io una bella lì, e una me l'hanno fatta fuggire quei continentali che vanno a cercare conchiglie, che tra l'altro non si possono prendere. Quando ce l'avevo appena l'acqua, quasi arrivata dalla battigia, la tenevo in alto perché era un bel grande, avevo paura che si puntasse. Questo che ha detto, oh com'è bella, pa, mi ha spaccato la lenza. Sono cose che capitano. No, a me mi piaceva vincere facile, io andavo, quando ero militare andavo a pescare con una cannetta da 2 metri 10, un aro in presenza e una corda, ma sono per ne prendere. Ci credo, dove andavi? Vabbè, a Santo Stefano. Ah, lì sei Santo Stefano, vabbè, lì magari ce ne sono anche di più, meno trafficato lì, capito? Ma mi hanno detto che alla Maddalena li pescano anche col formaggio, le orate. Se da crederci, non lo so, dice che li mettono i pezzi di formaggio nell'amo e li pescano col formaggio. Guarda, io ho un mio collega di lavoro che non è appassionato di più, ma lui si è informato, si è documentato, insomma è proprio preso male per la pesca. Io non ci credevo, lui ha preso già tre tonni da terra, non in barca, da terra. Cazzo, allora, ma a mare di fuori? Sì, a mare di fuori. Mi ha fatto delle fotografie, caspita, sono più grandi di lui, ma ecco, ci ho messo 3 ore e mezzo a toglierne uno. Figurati, e va così a cribarti, vabbè che poi c'è la soddisfazione, da poi commetti cosa di rimane con un tollo così in mano, te lo devi finire. Sì, poi devi vendere un pezzo a uno, un pezzo all'altro, ti riempi il frigo, non è che va, adesso mi dovrebbe, in questo ponte qua dovrebbero andare a pescare, e sicuramente ha fatto la battuta al tonno anche in questi giorni, però sai, è uno che si organizza al posto, che se lo prepara, che guarda le correnti, è uno troppo, troppo preso, però va sul corpo, va direttamente, quello che vuole prendere lo prende. A me è venuto a prendere, sai, tale giorno andiamo là e poi ti faccio prendere. E tu? Quindi pesca col vivo? Sì, anche, però usa molto l'artificiale anche, però la maggior parte è pesca col vivo. Lo so. Io una volta ce l'avevo il vivo, avevo messo un mugine che avevo pescato e non so come ha fatto attaccarsi, ho preso questo mugine e gli ho messo gli ami dove si mettono, sopra e dietro la coda, e l'ho buttato in acqua, cazzo, c'era questa spigola, li girava attorno, è stata la roba di mezz'ora, e tutti mi domi, occhio già che ti rumagna, va, e un cavo l'ha mangiato, se n'è andata e non l'ha toccato. Un po' darsi che si sia accorta di qualche cosa, però assolutamente io la spigola l'ho presa con una pesca stupida, col barchino, una platanona, ne ho preso due in un giorno, una da 1,7 kg e l'altra da 750 grammi, ma a ora di, forse la prima l'ho presa alle 11, la seconda a mezzogiorno, due giorni e mezzo, adesso non ricordo, ho piegato tutto e me ne sono andato. Ma l'estate? No, non è l'estate, era un periodo freddo, mi ricordo, non mi ricordo il periodo proprio, però era, insomma, un periodo freddo. C'era un po' di risacca anche. Allora io andavo a pescare anche alle 6, c'era uno di Sorso che praticamente ogni mattina passava con questo barchino, nel senso che era un coso che galleggiava con tipo palamito, rimaneva, no? C'aveva le discese con tutti gli ami, e lui tirava questo cavo dalla spiaggia, lo faceva camminare, lo sai, lo becio che bigliava? Sì, lo conosco, no? Siamo provati spesso e volentieri con lui. Quello è, sembra, se non sbaglio, è quello che aveva il negozio andato lì al centro commerciale, oppure c'è un altro, perché in due si troveranno. Allora, è semplice, c'è questo barchino che è un divergente, poi ti allontana dal barchino, ti allontana anche adesso un metro, e ci attacchi un filaccione da un metro con il pesciolino finto, poi dopo 3 metri ne metti un altro di filaccione con un pesciolino finto, e così via, ne puoi mettere 4, 5, 6, dipende quanto riesci a far andare tu il barchino. Però solitamente il barchino deve funzionare dalla spiaggia a 30-40 metri, però i pesci devono essere quasi a sottocosta, diciamo. E lui tirava questa corda che c'aveva dalla battigia, tirava e la faceva andare avanti, la faceva camminare, capito? E davanti a me ha preso una bella spigola, ma bella però, un bel pezzo. È una leccia a stella. Sì, no, è facile quella pesca, è che devi camminare. Poi mi avevo preso anche l'abitudine, anziché stare a recuperare, a fare, no, avevo preso già la mano per farlo girare senza tirarlo fuori, capito? Perché solitamente tu quando tiri lui diverge verso la in lontananza, però se gli sei fare una sorta di manovra, anziché andare da una parte vai all'altra e ti segue dall'altra, capito? Capito, adesso stanno utilizzando anche i droni per portare la lenza al largo, ma a me mi piace al lancio, ti dico la verità, perché quella è la pesca sportiva, poi portarla al largo l'ho portata anche io a nuoto. A nuoto, quando arrivavo l'amico che era con me mi faceva di mano e mollavo e poi tornavo indietro. Però cavolo, 5-6 volte il signore alla fine mi ha detto, quando ho preso l'orata, mi ha detto già se l'è meritata, già se l'ha lavorata questa orata, che lo stavo contando, è entrato roba di 6 o 7 volte e portarla al largo, cara di grimbami. Cioè io d'estate lo facevo perché mi mettevo le pinne e andavo al largo, capito? Io la portavo al largo anche a 300 metri al largo e si pescava, però era un lavoraccio, lo faceva a nuoto. Io, diciamo che con tutte le cose, la comodità io la preferisco, perché se c'è un drone che mi porta la lenza fuori faccio una fatica io, quello c'entra. Poi vabbè, se ti vuoi fare un lancio, due lanci, te lo fai, è come tante cose, perdi la manualità, però vabbè, è più semplice. Lo so, adesso ci sono tutte le comodità, però la vera pesca sportiva è quella al lancio, il surf casting è quello lì, quello al lancio. Se sa lanciare bene prendi, se non lanci bene ciccia, prendi i pesciolini, capito? Quello è il coso. Io conosco una secca che se tu riesci a lanciare quel dato numero di metri arrivi in quella che chiamano l'autostrada, perché è una secca che è infossata e passano, c'è un canale dove passano tutti i pesci e li peschi sempre. Una volta sono andato lì alla marina di Sorso e c'erano questi due ragazzi che mi hanno confessato che facevano lezioni di lancio eccetera eccetera, avevano canne particolari, lanciavano a 150 metri addirittura, ci avevano 4 orate ma bestioni, 4 orate in mezzo, le hanno messe in mezzo alla cosa, alle alghe per tenerle fresche, e c'erano 4 orate ma grandi, però roba di 4 kg, 3 kg e mezzo, 4 le hanno preso, poi hanno preso una razza di quelle grandi e l'hanno liberata, perché tanto noi non la sappiamo fare, la razza di Sudisidu, e tu non la serva, se me la regalavi me l'avrei presa e me l'avrei fatta io, basta smollentarla, togliergli la pelle e poi farle l'agrodolce, lo vedi che è buona. Lo so, Luca, aiuto, riprendi, come stai, aiuto, dai, su, non ne ho voglia Luca, va bene, no, a me già piace andare, però sono qualche anno senza andarci, però diciamo la verità che te lo devi lavorare il posto, perché sì, è vero, come hai detto tu, devi conoscere almeno un po' di secche, per poter fare mattanza, e se no devi lavorare il posto, andare di fuori. Questo a me me l'hanno detto, si arrenda perché noi facciamo lezione di lancio e abbiamo canne particolari per fare lanci particolari, con canne tipo quelle che ha lei, non per offenderla, io c'ho Olympus, c'ho tutte canne buone, perché sono canne buone, ma non sono canne professionali come queste qua. Mi ha detto, se riesci a lanciare vicino magari, ma a 150 metri è difficile che ci arrivi, capito? Me l'hanno spiegato, loro facevano proprio lezioni di lancio. Vabbè, cosa c'entra? Uno con la fortuna di tutti gli allacci, che c'entra? Uno ci prova. Ma infatti, poi c'era anche il riva minorata. C'era un periodo che c'era l'orario, dalle 8 fino alle 9 c'era un posto dove tu lanciavi quasi in riva e prendevi orattine da 500-600 grammi. Quindi quello che piacciono a me, qui, 500 grammi, è l'ideale secondo me. Sì, erano belle lì, cavolo, prendevi orate così. C'era l'orario proprio, dalle 8 alle 9 dopo non mangiava più. Io sono andato un paio di volte, ne ho prese 3 o 4, non tante, però c'era il tanto per farti una maniata. Eia. È così, io sono un po' senza andarci, dai, vediamo. Anzi, addirittura avevo in mente questo ponte di andare a farmi qualche lancio, ma il ponte si è crollato. E anche io sono 2 anni che non vado, c'ho le canne che mi stanno facendo male, le avevo tutte quante pulite, smontate i mulinelli, ingrassate, fatte, poi le ho messe da parte e adesso che sono pronto vado a pescare, tutta l'attrezzatura pronta, pila, dutugante, perché io vado dalle 8, mi faccio dalle 8 sino alle 11 di notte, a mezzanotte, dai, a volte facevo anche tutta la notte, ma non lo faccio più adesso. C'ho la sedietta, mi siedo, c'ho gli starlight e pesco così, la notte prendo mormoroni belli e cose, adesso non lo so, mi stava dicendo Bruno Uragano che non vedo più nulla, di dove andavo io, che non si pesca più niente, che muta le parametri, le reti e non si pesca più nulla. Vedi, anche quello è una cosa, vabbè, sotto costa fanno così, però adesso io credo che devo dire la verità, lì a Platamona ho provato anche qualche volta a lancio così, ma ti parlo dal quarto, quinto, sesto pittine, non ho preso mai niente, un bel mattinate buttate da presto sino a mezzogiorno, poi bisogna vedere, non addio, mai niente, a parte quella l'ultima volta che sono andato al barchino e però c'era un po' di male forzato, quindi è andata bene. No, io andavo sempre lì, al presidio militare ho sempre preso. Vabbè, qualche sera è capitato che non prendevi nulla, però quasi sempre prendevo qualcosa, capito? Quasi sempre. E vabbè, bei tempi. C'è un miliardo di pesci, c'è tutte le fotografie, non ho fatto tutte le fotografie di tutti i pesci che ho preso. Qualcuna ce l'ho, ma di quelli più belli, dai. Mi ricordi, ma non tanto per il pesce quanto per il divertimento, mi rilassava perché io facevo un lavoro pesante e dovevo scaricare, capito, qualche cosa. Poi quando uscivo dal lavoro a Porto Torres un'oretta e mezzo, 2 ore me le facevo, poi tornavo a casa proprio per scaricarmi i nervi, ecco, e lì prendevo, mi sgurisciavano tutti, mi dicevano a furarsi un pesce giunto, e beh, per me non è estate, e loro tutta la sera mi chiede una giubilea di nuda, prendo e ci avevo i bucconi, io con i bucconi non pigli nuda e roghi, prendo, butto 2 canne lontano e una la metto a pelo di banchina con il cucchiaino, cazzo, che cammina un cucchiaio di gol, poi ho detto prendi il coppo, cazzo, la canna che si piegava, la giubilea di una taruta da 1,5 kg, cazzo, ma sono duri i bidi di pesci in occhi, cazzo, vedi da casa furati un pesce. è bello così. No, io ero molto appassionato, ma diciamo la verità, mi piaceva andare a pescare i pulpi di notte, ecco, poi i pulpi mi piacevano un sacco, andavo a Trentino e lì non c'era, cioè è capitato qualche notte che anche io non ho fatto niente, non ho preso niente, solo per me fermata, però a volte mi sembra, una volta con mio cognato ne abbiamo preso 16 kg di pulpi, un seppione di quelle grandi, ma insomma a volte ne prendevamo anche 12 kg, dipende, ci divertivamo, vai. Ma pesca subacquea o col finto? No, una volta mi ricordo siamo andati anche pescando così con Benito, la pesca subacquea, però io ne avevo preso uno di notte, ma sinceramente mi ero tutto imbrogliato, alla fine mi sono tolto la mutta, mi sono messo gli stivali e ne avevo preso altri 7 senza mutta. Sì, già sono capitato, allora una volta io sono andato al molo, io andavo prima al molo Cattaneo, che adesso non si può più entrare perché attraccano le navi, ma prima non attraccavano le navi, e andavo alla prima curva, non facevo manco molta strada, mi sono fermato lì, c'era un ragazzo che stava pescando, ha detto beh qualcosa mangia, ha detto oh, niente, proprio nulla, e ha detto vai vai adesso riprendi i pesci, non ti preoccupare, lui ha dato la pacca sulle spalle, ma sa come si fa, cazzo, prendo, metto le canne e questo qui comincia, primo sarago, ma vedo massiccio, poi il secondo, ah tagoppa, rimani tutta la sera, ti ho fatto pescare. Sì, vabbè, sai cos'è, che ti ripeto, questo, io ci parlo molto con questi miei colleghi, no, di pesca, e mettono la mano e anche loro sono a orario, io ti porto con me la mattina, ma neanche tanto tardi, cioè neanche tanto presto, prepariamo tutto quanto, poi ce ne andiamo lì, andiamo a prenderci un caffè e poi andiamo a pescare, sa già l'orario tutto quanto, quindi sarà studiata la cosa, dai, ciao. Ci sono gli orari, te l'ho detto, anche quelle oratine le prendevamo dalle 8 alle 9 e poi non mangiavano i più, prendevi anche il pesce ma le orate non le prendevi più, capito? E così, ci sono gli orari, poi io sono andato anche presto, sono andato la mattina presto, una volta sono andato a Pordotone, se c'era un tipo che stava pescando e gli ho detto buongiorno, questo qui si è girato, mi ha guardato e non mi ha salutato, ha detto ma di chi sei, chi non ha le galerie? Vabbè, non gli ho detto nulla, ho preso la canna, butto la canna a buglio, anzi due canne, e metto i cucchiaini col manico girato, no? Per fare da segnalino. Stavo mettendo la seconda e passi la prima, appena messa, questo qui mi guarda in cagnesco, girato così, no? E ho preso un'oratina, l'ho messa nel secchio, e questo qui che mi guardava sempre, dopo due secondi, l'altra canna, e piglio una sorella, e questo qua che mi guardava, alla fine sai cosa ha fatto? Stampando leva, incazzando un nido, appena se ne è andato. E gli sta bene, così impara. Deve essere che l'esca che aveva lì non era buona, io c'avevo gli americani, con gli americani già lo sai, costano però, sono sanguigni e per l'orata non ce l'è. Allora guarda, io una volta sono andato con Sandro, l'amico mio, andavamo spesso lì a, dietro il cimitero, alla Gentiera, sì, alla Gentiera. La gentiera, dietro il cimitero. Però l'esca me la facevo il giorno prima, io a Platamo. Sì, grazie. No, i vermetti. Vabbè, la mattina arriviamoci da questo qua che aveva, praticamente stava brumeggiando da mattina presto questo qua, no? Però ho detto, vabbè, ci prendo qualcosa, metto nulla. Mi sono spostato, ho detto, ma mi metto qua, fastidio. Ho detto, no, metti tranquillamente. Però anche queste cose, chi brumeggia magari non ci fa caso, praticamente il brumeggiare suo veniva dove ero io, capito? Quindi i pesci dalla corrente venivano tirati verso prima di me e poi verso di lui, capito? Vabbè, ora la prova la prendo e lancio il massimo esagerando 10 metri, proprio quei lanci stanchi, quelli puff, piano piano, ma neanche il tempo di toccare con quei vermetti lì, neanche il tempo di toccare il piombo a terra, mangiato, recuperato, alla fine si avvicina a toccare, scusate, ma che scatta più usando? Sardina, ma... La vuoi sapere una? Una volta sono andato lì al molo e c'era questo ragazzo che stava pescando, io c'avevo gli americani e le cozze e lui c'aveva granchietti Praticamente gli ho chiesto se stava a pesca, ho detto tu non hai fatto una duccada, ma lo dai un verme a provare, e ho detto un verme e tu mi dai un granchio. Cazzo, è giubilato, pongo un granchio, è giubilato, lo vado, ma subito mi ha appena lanciato. Scusate, ho fatto messaggi vocali, sono tornato, c'ho la fame, sto aspettando qualche minuto. Gappa gappa, e vabbè, oh yeah. Sto ricordando un revival di pesca continua. Io vi ho sentito. Quando ti rimetti ce la facciamo una pescata, lui andiamo a pescare. Io ho la canna da pesca, lo sgabussi, ma la canna da pesca di 13, ma me la compro una carina già. Ma ci facciamo anche una tottanatta, calamalatta, quante cazzo bisogna. Sì, io già c'ho tutto, ce n'ho due o tre di canne, c'ho la cannetta per pescare i calamari pure, qualcosa, seppie. Aiuto, che vengo anch'io, dai. Se mi dite come si fa, perché io non ho mai imparato a fare calamari o tottani. Sì, che sa. Ti una cazzata, ti comprare la, come si chiama, la tottanara, ti metti un piombo leggero leggero, butti, lanci il più lontano possibile e recuperi piano piano, capito? Piano piano, poi ho bisogno di niente in giro, zitto. Recuperi e dai uno strappetto ogni tanto, recuperi e dai uno strappetto, di modo che il pesce si muova. Sì, ma quello che voglio capire io, il tottano va, deve andare a toccare il fondo oppure no? No, allora tu gli devi mettere un filaccione da circa mezzo metro, con un piombino piccolino da 10, da 15, dai, e rimane praticamente un po' sospeso, capito, il pesce finto. Rimane sospeso un po', ma non più di tanto, un mezzo metro, perché loro stanno a pelo d'acqua, va a pelo della sabbia, diciamo. Poi come vedono il pesce si alzano per attaccarlo, capito? Allora vedi, io l'ho usato una tattica del genere, però l'ho usata forse troppo veloce, perché lanciavo, aspettavo qualche secondo, poi recuperavo, però facevo troppo veloce forse, quindi camminava credo quasi sopra l'acqua. No, devi ti recuperare piano piano, poi ogni tanto gli dai uno strattino, di modo che il pesce si muova di colpo, loro lo vedono e l'attaccano. Allora, all'attino, io c'ho anche il flash, capito? Mi fa il flash, lì si accende, perché è fluorescente, no? Si accende. Lanci e lo vede meglio al buio. Io una volta non ho preso nulla, qualcuno pescava, io nulla. Ce l'ho fatta apposta, questa cosa qua era lì, proprio un punto buono. Lui prendeva calamari, io recuperavo totalare. Cosa vuoi fare? No, vabbè, sinceramente non ho mai pescato, ho visto qualcuno pescare, però non ho mai praticata quella pescaria. E poi si fa solo di notte, giusto? Si fa al freddo, ma no, anche la sera va bene, la sera alle brunire. Praticamente io ho pescato molte seppie, io avevo trovato, vedi la Natalino, perché già l'ho detto anche a lui il posto, e siamo andati insieme, ne abbiamo preso di seppie, Natalino ne ha preso anche belle grosse, ne abbiamo preso sia uno che l'altro, tutti e due, una volta ne ho preso 12, poi qualcuno ha pescato la seppia e ha lasciato la traccia, praticamente l'ha buttata sul molo, ha tolto il nero, hanno visto il nero di seppia, già lo sono andato e viene tutta canta la greffa a picchetto. Sì, guarda, io ho visto gente pescare, ho fatto un lavoro lì a Porto Torres, dove c'è il bar, come si chiama quel bar lì, porca miseria, mi sfugge il nome. Cormorano? No, il Cormorano, Marinella, come cacchio si chiama? Ah, ho capito, quello che c'è per la zona industriale. dove vai a imbarcare praticamente? Lì, dai, ha fatto un lavoro con l'escavatore, infatti mi sono trovato con un genio. Praticamente lì, tu entri lì e sulla destra c'è una, sempre fa parte del porto, non è che, però ti fanno entrare, c'è un pezzo aperto dove andavano a pescare le sete, lì, però pescavano dalle 4 e mezza in cui lì. No, io le ho prese anche di sera. Io c'è l'attalino testimone, una volta ne ho preso 12 addirittura, 12 seppie, che se non ci ho fatto un riso ma abbondante. Ci credo, io sinceramente l'avrei preferite fritte. Vabbè, non ne ho mai preso, devo essere sincero. Io preferisco i calamari. Sì, i calamari sono migliori, Poi tiro per la pescati, dolci dolci, via. Li pulisci bene, li, come si dice, li metti nella farina e poi li friggi, buona reddita, devi fare un po' croccantini, mamma mia. È cosa si. Dopo ti chissi che ti vendi nei ristoranti, chissi roba congelata, mica roba fresca. Poi sono cingomma che si ti dà nei ristoranti. Io calamari pochi ne ho preso, ma seppie tante, seppie ne ho preso un bel. Sapevo un posto dove si pescava una gogo. E niente, mi sono divertito, dai lì. Però poi si è sputato il posto, buonanotte. Ci andavano tutti quanti, hanno visto l'ero e da lì hanno capito che si pescavano seppie, hanno cominciato a lanciare, a fare. E vedi pienone, non c'era più posto nemmeno a metterti. Ma così, purtroppo così. Io pescavo molti pulpi senza andare molto lontano, fintino al porto nuovo, ma mi facevo la camminata, adesso non si può più entrare, ma sai i pulpi che ci sono lì. E seppie, solo che adesso non ti fanno più entrare, è un casotto lì. Io andavo all'isolotto con l'attalino a pescare. Ma già che ti ubicavami. L'isolotto ce l'hai presente dove è a Stintino? Ti sto dicendo io, andavo pure a fare pulpi. L'isolotto andando proprio nella punta del porto, proprio a uscita del porto. Entravo, uscivo. Sì, all'isolotto ci avevamo portato l'ombrellone una volta, c'era un bel sole, d'estate siamo stati lì, abbiamo mangiato lì tutto quanto. Avevo fatto una strage di tutti e di più, addirittura anche sulle barche ho lanciato. Sì, ma tu mai, allora, non so se ce l'hai presente, quando allora l'isolotto non era, tu vai per l'isolotto per il porto, no? Scendi con la traia, qua l'ho fatta io. L'ho aggiustata io ultimamente. Adesso c'era il bar, non ti fanno entrare. Prima invece era tutto libero, non usavano il porto, usavano il porto vecchio. Quindi arrivavi con la macchina sino al molo, andavi al molo sino, io andavo al molo sino in fondo con la macchina. Addirittura arrostivamo anche, figurati, venivano i carabinieri e lì facevamo, scendevamo nelle scalinate e camminavamo in basso con la cittilena e la fiuccina, ma i colpi li prendevi proprio sulle pietre. Ho preso anche una ragostella lì. Ovvio, e come? Con una fiuccina, l'ho vista fermo e tac, l'ho appena buccata nel sopra, nella schiena e me l'ho portata via. Ma non si svuota quando la spari? No, non l'ho sparata, avevo la fiocina a mano, tipo, come ti posso dire, gli antichi, la luce e la forchetta. Ah, ho capito. E invece al mondo dove andavo io c'era le barracuda, c'era un tipo, si metteva il fucile nascosto nella scalinata che c'era, quando aveva il barracuda lo prendeva il fucile, a me non si vede niente, no, pigliava tu, lo tirava da sopra e lo bicicava. E perché non si può pescare? No, da sopra no. La pesca subacquea si può fare ma non al molo. Al molo prima di tutto non puoi entrare a fare pesca subacquea. E poi secondo loro lui il fucile sparava da sopra al molo, capito? No, non lo sapevo quello. Tu pensa che non erano neanche arrivati, c'era il polpo sopra la luce, aiuto, acciapparo. Allora ce n'era, facendo che prendevo il pulpito, lo mettevo in piedi, tu immagina quanto sono alto io, lo tenevo quasi vicino alla mia testa e lui mi toccava i tentacoli in terra. Sì, poi ho preso un ombrello anche io. sui 4 kg, 3 kg e mezzo, 4 kg era. Sì, lì erano belli grandi, lì erano belli grandi, al contrario di Malvifuri che fanno massimo 2 kg così, più del mezzo 2 kg, lì invece partivano 3 kg, 4 kg, il mio amico ha preso uno da 4 kg e mezzo, una piovra, ragazzi, era enorme. Sì, io a me quello che ho preso io l'ho alzato e partiva dalla testa, mi arrivava fino quasi alle ginocchia il tentacolo. Questo amico mio, come veniru, si è cagato sotto perché me lo doveva fotografare, no? Io l'ho avvicinato, oh, lontano lì! E allora, aspetta un attimino già. Sto guardando se... Se stava camminando ancora questa roba. Vabbè, dai, io vi lascio, devo portare giù il cane, dai, che poverino deve scendere, dai, sta aspettando pure lì, è la troppa pazienza anche. Dai, ci sentiamo alle prossimine. Ciao Luca, ciao Tino, ciao a tutti gli amici che sono in ascolto e buon continuo con questo, ciao a tutti. Aspetta, è la cosa che abbiamo pescato, dove la cuciniamo ora? Sì, ma me la voglio fare una pescata, anche se sono goduta dolori in tutto il corpo, no, nella gamba non c'è più nulla, mi è passato, però la mattina quando mi alzo sono un rottame, dopo come cammino mi passano, però tutte le aggiunture mi scricchiolano, mi fanno, sono tutto un bosso male, ma ci voglio andare lo stesso. Letta, cosa ci vuoi fare? Va bene, dai, ti lascio andare. Ciao Gianni, dai, buona passeggiata. Luca, ci sei ancora? Vabbè, io mi sto spostando lo stesso, dai, tanto devo andare a prendere mio figlio fra un po'. Ci sentiamo più tardi, ciao. Yeah.